prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ancora ben trovati nel nostro spazio settimanale insieme alla Caritas di Padova, in studio Mirko Cavallin, uno spazio dove ovviamente trovano eco iniziative nazionali promosse dalla Caritas italiana e dalla Conferenza Episcopale, dalla CEI. Una di queste è il prestito della speranza che anche la Diocesi di Padova sta attuando. Questo progetto è promosso proprio dalla CEI in collaborazione con le Caritas diocesane. Si tratta di un prestito a condizioni agevolate per persone fisiche, famiglie, microimprese che abbiano difficoltà ad accedere al credito. Il fondo non eroga direttamente denaro, questo è bene precisarlo subito, ma costituisce un capitale a garanzia dei finanziamenti che vengono erogati dalla Cassa di Risparmio del Veneto. C'è il credito sociale che è destinato alle persone fisiche. Finanziando la singola persona si potrà intervenire anche a favore del suo nucleo familiare. Sono finanziamenti per necessità della famiglia. L'importo non supera i 7.500 euro. Il TAN non è superiore al 2,5%. Il finanziamento viene poi restituito alla banca sulla base di un piano di ammortamento della durata massima di 6 anni. Poi c'è il credito fare impresa che è riservato alle microimprese, finanziamenti fino a 25.000 euro erogati in un'unica tranche se non diversamente concordato tra la banca e il cliente. Questo per avviare o sviluppare un'iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo. Qui il TAN non supera il 4,5%, il finanziamento viene restituito anche qui con un piano di ammortamento della durata massima di 6 anni. Le richieste di colloquio si fanno con una mail molto semplice: prestitosperanza@caritaspadova.it oppure contattando la sede della Caritas 049 877 17 22. Altre informazioni si trovano sul sito www.caritaspadova.it. C'è anche il sito ufficiale di questo progetto che è www.prestitodellasperanza.it, dove ci sono ulteriori dettagli. Ecco, mi soffermo proprio su quelle categorie di persone o di imprese che possono accedere a questi finanziamenti ai sensi della convenzione: le persone fisiche e le famiglie che siano in situazione di vulnerabilità economica e sociale, disoccupati, cassa integrati a causa della crisi economica, giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori precari, giovani coppie all'inizio del loro percorso di famiglia giuridicamente riconosciuta o in fase di costituzione. Ecco, questo è un aspetto importante. C'è anche la possibilità di sostenere beni o servizi di prima necessità, escludendo il sostegno a spese voluttuarie e superflue. Altre persone che possono essere ammesse al prestito sono persone disagiate in grado di intraprendere un nuovo progetto di lavoro. E poi le microimprese, come sono definite dal codice del consumo, possono essere individuali o società di persone, SR semplificata, anche cooperative, che abbiano difficoltà di accesso al credito per realizzare investimenti sostenibili di crescita e sviluppo oppure sono in fase di avvio. Ovviamente bisogna documentare tutte queste situazioni, verificarle, certificato ISE, casi di disagio, casi di disoccupazione per quanto riguarda le imprese, l'iscrizione alla Camera di Commercio, i bilanci degli ultimi 3 anni, la regolarità delle posizioni fiscali o contributive, il cosiddetto DURC. Gli imprenditori sanno di cosa stiamo parlando. Altro aspetto importante è che questi finanziamenti non sono cumulabili tra gli appartenenti allo stesso nucleo familiare o gruppo di persone che promuovono la stessa attività imprenditoriale. prestitodellasperanza.it è appunto il sito di riferimento dove trovare ulteriori informazioni. Rilanciamo poi un appello della stessa Caritas diocesana per la ricerca di volontari. Infatti sta per partire prossimo mese di aprile la nuova edizione del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro. Ebbene, per tutti gli sportelli, quindi Padova Guizza, Padova Arcella, Vigonza, Piove di Sacco, Monselice, Este, Montagnana, Rubano, Arsego Curtarolo, Romano De Zelino e Etienne Asiago, si cercano volontari da affiancare affiancare al gruppo degli attuali volontari che sono già esperti. Al volontario cosa viene chiesto? Ovviamente la disponibilità di una presenza o settimanale o quindicinale allo sportello nel suo turno di apertura per circa 8-9 mesi all'anno. Inoltre un paio d'ore alla settimana in orari liberi per qualche contatto nel territorio, una minima conoscenza del computer per gestire una procedura semplice e collaudata. Questo sul piano tecnico. Sul piano umano invece la cordialità nel colloquio con le persone, la giusta pazienza nell'ascoltare, un po' di fantasia nel cercare soluzioni e la voglia di far parte di un gruppo di operatori che credono nell'utilità dell'impegno loro proposto. Ecco, se vi riconoscete in questo piccolo profilo potete contattare anche qui la Caritas diocesana dal lunedì al venerdì mattina 9:30 12:30 049 877 1722, oppure scrivere a adamonlus@caritaspadova.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.